Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Indeciso se salutarvi con gli auguri di Natale e poi farmi risentire nel 2008 e invece tenervi compagnia anche in qualche giorno nel mezzo fra Natale e Capodanno, alla fine ho optato per la seconda ipotesi. Giulio Caperdoni in vostra compagnia anche per questa settimana, una settimana corta, anzi cortissima, solo il giovedì e il venerdì a tenervi compagnia, quindi solo quest'oggi giovedì 27, solo domani venerdì 28, il tutto ovviamente anche questa settimana disponibile in podcasting. La siccità si protraeva ormai da 10 milioni di anni e il regno delle terribili lucertole era finito da molto tempo. Lì, sull'equatore, nel continente che un giorno sarebbe stato chiamato Africa, la lotta per la vita aveva raggiunto un nuovo diapason di ferocia e il vincitore ancora non si intravedeva. In quella terra sterile e arida, soltanto le creature piccole, o fulminee o feroci, potevano prosperare o appena sperare di sopravvivere. Gli uomini scimmie del Veldt non possedevano alcune di queste caratteristiche e non stavano prosperando. Si trovavano, anzi, già molto avanti sulla via dell'estinzione della razza. Questo era l'incipit di 2001 Odissea nello spazio di Arthur C. Clarke. Control on video table. tombstone. Marty, let me see that coin back here. My name, it's vanished. Hey, that's great, Doc. Don't you get it? We're going back to the future tomorrow, so everything's being erased. But only my name is erased. The tombstone itself and the date still remain. That doesn't make sense. We know that this photograph represents what will happen if the events of today continue to run their course into tomorrow. Right, so. Excuse me, Mr. Eastwood. I just need to take your measurement. Oh, look, pal, I don't want to buy a suit. No, this is for your coffin. My coffin? Well, the odds are running 2-1 against you. Might as well be prepared. So, may not be my name that's supposed to end up on this tombstone. It may be yours. Great Scott. I know, this is heavy. Yesterday was kind of like the 4th of July. The way your face lit up the entire sky. Had to look away because it hurt my eyes. The way you hit me was a big surprise. Wasn't making any sense, but it felt okay. Ask you if it was my birthday. This kind of thing don't happen every day. A little curious, a little wild. Live in the moment and you'll never go out of style. You know it's really been a while. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. I didn't think an angel would get in my way. Hey, let me tell you. Yeah, excuse me, won't you step aside? Hey, hey, I don't got a room for you in my life. I don't got the patience to love again. Come un fiore dal quale si va a staccare petalo dopo petalo, così noi qua in Eclettica stiamo scoprendo settimana dopo settimana in Rainbows da parte del Radiohead. Per esempio quest'oggi Eclettica si è aperta con Videotape, che ancora non ci eravamo ascoltati. Poi Imani Coppola, che ha appena chiuso Raindrops from the Sun, con sottotitolo Hey Hey Hey. Non c'è assolutamente nessuna parentela con il regista, nel caso lo stiate pensando. Imani Coppola, che aveva autoprodotto questo disco all'inizio del 2007, e alla fine dello stesso anno il disco è stato ripubblicato dalla Ipecac, del motivo per cui

Anche in quest'era metrica continuava ad essere chiamato il telescopio da mille piedi e non il telescopio da 300 metri. Il grande disco situato tra le montagne era già per metà colmo d'ombra, mentre il sole tropicale scendeva rapido al di là dell'orizzonte. Ma la struttura triangolare dell'antenna, sospesa in alto sopra il centro del disco, continuava a rifulgere di luce. Dal livello del suolo, molto più in basso, sarebbero occorsi occhi acuti per scorgere le due sagome umane nell'aereo intrico di travi d'acciaio, cavi di sostegno, radiatori d'onda. Questo era l'incipit di 2010, Odissea 2, di Arthur C. Clarke. costante in eclettica. Nelle ultime settimane questa The End of the World, appena ascoltata da parte dei Time, Space, Repeat, è invece un'assoluta novità al brano che va a chiudere questa prima parte, ma attenzione, un'assoluta novità non in termini di uscita discografica, ma in termini di presenza nelle playlist di Eclettica. Infatti questo è un brano che risale a circa una decina di anni fa, e sono diverse le vie per cui si può scoprire musica sconosciuta. Per esempio, per molti di voi può esserlo questa stessa trasmissione, per me negli ultimi anni lo è sempre di più internet, e quindi vengo a scoprire di un gruppo il cui nome è Madison Electric, che ha inciso veramente una manciata di canzoni, mi faccio incuriosire dalle cose che leggo e cerco i loro dischi e riesco a trovare un vinile. Infatti, se noterete, sentirete quelle imperfezioni che sono tipiche dei cari e vecchi dischi in vinile. Loro sono i Madison Electric a regalarci sensazioni, a regalarci emozioni, perché in Eclettica non è che dobbiamo spingere l'ultimo gruppo del momento, non abbiamo promozione da fare, ma abbiamo emozioni da condividere. Questa è quella dei Madison Electric, si tratta di V-Neck. Why are you wearing that gun? You're not considering going up against Tannen tomorrow. Doc, tomorrow morning I'm going back to the future with you. But if Buford Tannen comes looking for trouble, I'm going to be ready for him. You heard what that son of a bitch called me last night. Marty, you can't go losing your judgment every time someone calls you a name. That's exactly what causes you to get into that accident in the future. What? What about my future? I can't tell you. It might make things worse. Wait a minute, Doc. What is wrong with my future? Marty, we all have to make decisions that affect the course of our lives. You've got to do what you've got to do. I've got to do what I've got to do.